Ci fermiamo qui, ma torneremo a parlare del Mose domani sera. Chiederemo ad Hermes Redi di renderci conto dei tanti dubbi che ancora circondano l'opera. Buona serata.